Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Iniziò a calare la notte e noi, convinti di aver trovato la giusta direzione, dopo tanto girovagare, finimmo dritti in una strada bianca perché questa è quella giusta, me lo sento, diceva lo zio. La corsa dei nostri eroi si fermò sulla sbarra di un cantiere che mandò in mille pezzi il parabrezza dell'auto. Mi chiamo Alessandro, ho 42 anni e vivo a Roma. Le notti sono diverse dai giorni. I giorni sono più uguali rispetto alle notti. Le notti sono bianche, lunghe o corte, sono piene di sonno e vuote di sogni. Scandiscono la vita più dei giorni, anche se non sembra. Ecco perché quella notte non è una notte qualunque. È la notte in cui qualcosa è successo, qualcosa è cambiato e ci ha cambiato. Avevamo 15 anni, 17 o 13, ma quella notte ce la ricordiamo perché è parte di noi. Come quella notte in cui lui mi diede un bacio e scoprì che era una scommessa. E nonostante tutto io nell'amore ci credo ancora. Come quella notte in cui, parlando per ore con lui, capii di essermi innamorata per la prima volta e che non avrei mai avuto speranze. O come quella notte quando è arrivata la mia moto, ordinata a maggio, non arrivava più. Notti insonni, mancava solo la targa. Sveglio solo per lei. Gilera RV125, 21 giugno 1984. E ancora quella notte sull'autobus di ritorno da Parigi, gita scolastica. Il primo bacio da innamorato, da Auxerre a Dijon. O ancora, quella notte che ho iniziato a leggere Il Signore degli Anelli con un disco degli Alan Parsons Project. Magia pura. 349-238-6666, ma anche 800-24-0024. Se invece avete un profilo Twitter e avete voglia di seguirci, voi siete qui, R24 è il nostro profilo, cioè il profilo del programma, ma l'hashtag di oggi, per chi se ne intende di hashtag, è ovviamente quella notte. Provate a immaginarvi provate a pensare a una notte di quando eravate ragazzi. Una notte... La prima notte che vi viene in mente, la notte in cui appunto qualcosa è cambiato, magari senza volerlo, semplicemente perché eravate appunto in gita scolastica, come è successo a qualcuno che già ci ha scritto su Twitter, oppure perché eravate in vacanza e avete incontrato qualcuno, o magari no, eravate a casa ed è successo qualcosa quella notte. 800240024, prendiamo anche un paio di telefonate oggi al volo, dal momento che Alessandro, l'autore della storia, ha preferito non intervenire, quindi abbiamo deciso di sentire altre storie che vengono da fuori. 800240024, la notte che vi ricordate di quando eravate ragazzi, qualunque notte sia, qualunque cosa sia successa, un po' come Federica che scrive questo non su Twitter ma sul profilo Facebook del programma: quando scapparono, la notte in cui scapparono tutti i cavalli e li sentivamo galoppare liberi in fondo alla valle. Questo, guarda Federica, non so se è vera questa storia, però sembra, sai cosa, Il Silenzio degli Innocenti. Sai quando lui continua a ripeterle, le fa tirare fuori questo ricordo degli agnelli che piangono, no? Ecco, sembra una roba di quel tipo lì, ci si immagina questi ragazzi in una casa in campagna e i cavalli che non si capisce perché siano fuggiti e si sentono gli zoccoli in fondo alla valle. Poi magari è una metafora, non lo so, però 800240024. Se avete voglia facciamo anche e se avete Twitter tra le mani e se avete voglia di giocarci, facciamo un gioco dal vivo in diretta. Voi siete qui, R24, l'hashtag è quella notte. Quello che è successo quella notte e che cosa aveva cambiato, se ce la fate, in 140 caratteri. Ma ancora, Francesca, quella notte in cui ho letto poesie per telefono al ragazzo che mi piaceva. Questa cosa solo prima dei 20, solo, no, forse anche 20, 19-20, oh, forse anche 21. Sì, giusto. Tiziano Bonini fa il gesto con la mano che, come dire, non funziona. Oppure no, invece, oppure dipende, perché può essere che lo usi come modo per, oppure sei talmente bollito, sei talmente cotto ormai che vale tutto, anche leggere le poesie, anche leggere poesie al telefono. Il problema è come cominci, cioè come lo dici. Aspetta, togli un attimo la base. Senti, ho avuto quest'idea, no, perché ho trovato queste poesie oggi, no? E stai lì che le trovo, ce l'hai già sotto mano ovviamente. Aspetta un attimo che le cerco, aspetta un secondo. Guarda, te ne leggo, senti che bella questa. E niente, poi parti e vai. Comunque un po' di stomaco ce lo devi avere, o comunque devi avere almeno 16 anni. Quella notte, 800240024, Mara, la notte del mio primo bacio. Vabbè, siamo qui, a 16 anni. È stata in vacanza nel paesino dei miei nonni in Toscana. Era un ragazzo che mi faceva il filo da anni. È successo sotto casa mentre l'intero paese già dormiva. O almeno lo spero. Vabbè, Mara, un bacio. Sono sensazioni che non scorderò mai. Imbarazzo, agitazione e felicità. La cosa più dolce mai esistita. 800240024 oppure 349-238-6666. Non serve molto, eh. Serve veramente solo ricordare che cosa è accaduto quella notte e perché vi ricordate quella notte e non altre. Questa storia è nata perché appunto Alessandro ci racconta, e a breve vi racconterò la sua storia, che è legata a quella notte là, che lui si ricorda con precisione, in cui era in compagnia di uno zio che è un personaggio magnifico, viene accennato appena appena, ma sembra uscito da un romanzo di Ammaniti, e tutto per andare ovviamente a trovare la fidanzata, ma adesso ve la racconto. Però è arrivato sul profilo Facebook del programma, e ringrazio Emilio per averla caricata pubblicamente, perché la si può leggere, la potete leggere tutti. È andato su Voi Siete Qui Radio 24. È una storia bellissima che racconta di quando quella notte diventa quasi una questione di principio, ma non si ferma lì, va oltre, a che parla di amicizia, di voglia di superare i propri limiti, quelli dell'altro. Rimanete lì, dopo la borsa ve la leggo. È una storia bellissima, forse una delle più belle che siano arrivate su Facebook, così volanti come un commento qualunque. 349-238-6666, ma anche al telefono in viva voce 800240024. Questa è la storia di una di quelle notti che ti rimangono un po' appiccicate sulla pelle. Se provo ad immaginare la stessa situazione oggi, ai tempi del cellulare, del navigatore satellitare, del palmare, non mi piace più. Anche se probabilmente avrei passato la notte fra le braccia della mia ragazza, invece che nella bisca a giocare a poker insieme a mio zio. Avevamo progettato tutto nei minimi dettagli, io e lei. Lei è Cecilia, la mia prima vera fidanzata. Dopo diverse settimane di lontananza ci saremmo rivisti quel tale giorno alla tale ora in quel preciso luogo, senza però risentirci nel frattempo. Il tale giorno arrivò, alla tale ora ne mancavano circa 4 e il tale luogo era per me ignoto. Non c'ero mai stato. Tutto questo in un tardo pomeriggio di luglio del 1986, stazione Termini, Roma, quando mio zio venne a prendermi per accompagnarmi da lei sul lago di Bracciano. Era un tipo strano, mio zio. Viaggiava su una 126 tutta scassata, che mandava però sempre a tutta velocità. Con le incerte coordinate che gli fornì, si avviò sparato verso la nostra meta, senza esitare. Non avevamo la cartina, il navigatore non esisteva, e la casa della mia ragazza mi aspettava per darmi le chiavi del lucchetto del suo amore. Non aveva il telefono, quella casa. Iniziò a calare la notte e noi, convinti di avere trovato la giusta direzione, dopo tanto girovagare, finimmo dritti in una strada bianca, perché questa è quella giusta, me lo sento, diceva lo zio. L'ora X che il trasportato aveva fissato con la sua bella si avvicinava, inesorabile. La corsa dei nostri eroi però si fermò sulla sbarra di un cantiere che mandò in mille pezzi il parabrezza dell'auto. Una situazione difficile per una persona normale. Mio zio però non si perse d'animo. Ritrovò semplicemente la strada per tornare a Roma e mi portò a giocare a poker con dei suoi amici, che ricordo come dei tipi poco raccomandabili. Lui sosteneva che quella notte era destino che non ci incontrassimo, io e lei. Ricordo ancora di quella notte il vento sulla faccia, i moscerini, le prostitute ai lati della strada, il cielo immenso e buio, e quest'uomo che continuava a parlare, a guidare e a fumare come se niente fosse accaduto, un po' Gassman nel sorpasso. Certe notti non si dimenticano facilmente. Anzi, non si dimenticano più. Ho 16 anni e sono a una festa a casa di una compagna di classe. La storia di Alessandro mi ha riportato qui, 20 anni fa. Non ho molta confidenza con i miei compagni, giusto con un paio, sono Carlo e Federico. Giochiamo insieme a pallone e poi guardiamo la TV e ci scambiamo libri e dischi. Crediamo di essere un po' più intellettuali degli altri, ma alle feste ogni tanto ci andiamo anche noi. Quando lo facciamo decidiamo, prima, di dividerci. Per non sembrare tra sfigati. Ci diciamo che ognuno di noi può divertirsi come vuole, ma se per caso incontra una ragazza simpatica che ha un amico, un'amica, ovviamente, è moralmente obbligato a chiamare a supporto uno degli altri due. La nostra unica regola. Per il resto noi siamo lì per ubriacarci, non siamo lì per ubriacarci noi, perché siamo tutti tre astemi, e poi io non fumo, perché mi ha sempre fatto schifo. Quindi non posso nemmeno stare in piedi come Ewan McGregor in Trainspotting. Lì, a bordo pista, a fare un po' il figo con la sigaretta in bocca. Niente da fare. Lo stereo di casa di Giovanna manda Mysterious Ways degli U2 e le luci sono basse. La gente balla nella grande sala, balla nei corridoi e anche nelle piccole stanze. Qualcuno si bacia, molto fumo, poche parole. Io non sono uno da festa, ma l'atmosfera mi piace e posso starmene in disparte a guardare gli altri. Forse un po' troppo, infatti passano un paio d'ore e io sono sempre immobile a osservare le persone che ballano, si baciano, bevono, vomitano e tornano a ballare. All'improvviso davanti a me si presenta il Brusa, bocciato, 2 anni più di noi, con la patente. Praticamente io e lui non ci siamo mai rivolti la parola. 10 minuti prima stava in un angolo con una ragazza che non ho riconosciuto e ora è davanti a me, con una sigaretta accesa e una bottiglia di Cointreau in mano. Mi parla, io non capisco cosa dica. Si avvicina e dice: andiamocene da sto postaccio. Lo seguo. Quando siamo fuori mi accorgo che l'aria esiste ancora e dentro di me lo ringrazio per avermi salvato da quell'inferno. Il Brusa ha una moto da cross, lo sanno tutti. Una volta si è anche rotto una gamba facendo un salto. La moto è lì. Lui butta la cicca, appoggia per terra la bottiglia vuota e mi fa cenno di salire dietro di lui. È notte fonda. Siamo quasi in mezzo alla campagna, ma io salgo. Me ne vado senza casco e senza nemmeno avvertire i miei amici moschettieri. Sfrecciamo nel buio sentendo odore di letame, strade sterrate e tantissime lucciole che si vedono sempre a maggio. O almeno si vedevano. È una notte senza luna, poi l'asfalto e il Brusa accende le luci. Ci fermiamo davanti a un bar sulla provinciale. Non sapevo che rimanesse aperto fino a quest'ora. Anzi, non sapevo nemmeno che qui ci fosse un bar. Intorno non c'è niente, nemmeno un benzinaio. Entriamo e lui ordina 2 bicchieri di prosecco. Io bevo senza parlare, mi fa schifo il prosecco, ma mi piace. Mi piace giusto il fatto di berlo. Risaliamo in moto e dopo 5 minuti siamo in una sala giochi. È quasi vuota, ma la luce sul biliardo è ancora accesa. Prendo una stecca come se fossi Paul Newman, ma non ho mai giocato in vita mia. Il Brusa allunga dei soldi alla cassiera e lei se ne va, lasciandoci la chiave. Poi cominciamo a tirare le biglie. Lui bene, io male. Le manco quasi tutte, ma il rumore della stecca che scivola sulla mano mi piace e il colpo sulla palla bianca è già una soddisfazione. Per imparare poi c'è tempo. Stasera si sta solo facendo finta di essere Eddie Lo Svelto e Minnesota Fats, non 2 ragazzini che ascoltano musica inglese. Mi riporta in piazza il Brusa, non mi chiede nemmeno dove abito, non ci parliamo, se ne va senza voltarsi e io da domani farò lo stesso. Con chiunque. Time to walk away and start over again. Weather's murder at 103. William Ray shot Cora Belli. A yellow dog knows when he has sin. You wanna walk away and start over again. No more rain. No more roses. On our way. Shake my thirst in a cool. Quella notte sta andando alla grande, arrivano messaggi dappertutto, sugli SMS, su Facebook e su Twitter. Quella notte dell'86 che ho fatto un incidente distruggendo 3 macchine, sono uscito illeso, Gavino o anche Gianluca D'Asti, la prima notte di guardia all'accampamento ONU in Mozambico. Invece su Twitter con l'hashtag quella notte mi scrive Francesco, quella notte del 9 luglio 2006, hashtag campioni del mondo, come dimenticare. E poi due invece simili, per sostanza. Antonio, quella notte in gita a Firenze, sono stato sveglio tutta la notte per la prima volta. E Stefano uguale, quella notte che non dormì, stanco, aspettando il mattino solo per dire, sono stato fuori tutta la notte da solo. 800240024, stiamo a Milano, andiamo da Lorenzo, che in una notte è andato a trovare la nonna in moto. Pronto, Lorenzo? Ciao Matteo. Ciao, è una notte di 44 anni fa. Quanti anni avevi? 18. 18, quindi ne hai 62. Che mi ha fatto nascere una grandissima passione, che è la passione per i viaggi in moto. Raccontami tutto, dove stava la nonna? Era a Riccione. Era al mare, chiaramente, si parlava di fine luglio, primi di agosto, adesso non mi ricordo decisamente la data. E tu eri a Milano? Era una notte, Milano caldissima. Ok, perché Milano prendi la moto alle 2 di notte per andare a trovarla? Allora, Milano caldissima... non riuscivo a dormire, in più mio padre mi aveva appena regalato una motocicletta, era una Gilera 125. Sì. E niente, fatto sta che... Niente, hai preso la moto, sei andato dalla nonna, mi sembra più semplice di quanto esatto, sia. Niente, per cui non riuscivo a dormire, avevo questa moto bellissima, nuovissima. Quanto ci hai messo, Lorenzo? Mia madre non mi ha detto assolutamente niente e sono arrivato dalla nonna che stava facendo colazione, quindi praticamente 7 ore. Lorenzo, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Andiamo in provincia di Lodi, da Giovanna. Pronto, Giovanna? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Scusami un attimo che sto allacciando il mio bambino sul seggiolino della macchina, solo mezzo secondo. Fai, solo mezzo secondo. Ci sei. Dove, da dove? Da, dimmi, aspetta. Giovanna, fermati lì. Dove vai a prendere tuo figlio? Dove stai andando? Da dove arrivi? Io sto ritirando il mio bambino dalla scuola materna. Ritirando, si dice? Ritirando, è la prima parola che mi viene. Allora dimmi, eravate in una cascina? Eravamo in una cascina, no? Avevamo avuto l'incendio perché il camino era vecchio e non avevamo mai pulito la canna fumare, quindi abbiamo domato l'incendio, tipo fino a mezzanotte, no? Sì. Poi, contentissimi di aver gestito la situazione, siamo andati a letto. Però abbiamo detto, ci diamo i turni per controllare. Si sa mai, certo. Ecco, si sa mai. Poi, di fatto, chi doveva fare i turni non si è svegliato. E ci siamo svegliati nella notte, avvolti da una nube di fumo, che perché l'incendio aveva proseguito il suo corso. Nessuno aveva fatto la guardia. Ma di solito chi fa la guardia deve stare sveglio, giusto? Non addormentarsi. Ma quello che doveva stare sveglio non è stato, che era mio papà. E quindi ci siamo svegliati quasi miracolosamente. La figlia parla. Ma rischiando veramente. Immagino. Cosa ha detto tua figlia, Giovanna? Come? Cosa diceva tua figlia prima, un attimo fa? Io siccome parlavo di mio papà, lui stava aggiungendo che il mio papà. Ah, ok. Che però non è il mio. Certo, è il nonno. Sito, no? Quanti anni avevi, Giovanna? Avevo, guarda, 17 anni. 17. Ti ringrazio e vado da Antonio da Taranto. Ciao. Grazie, Giovanna. Buona giornata. Ciao. Pronto, Antonio? Sì, pronto. Come stai? Io sto benissimo. Dove ti trovi, Antonio? Io mi trovo in un centro di medicina sportiva, che devo fare una terapia per una tendinite vigliacca. Che ti è venuta come, scusami? Parlare. Che ti è venuta come? Mi è venuta facendo footing con mio figlio. Ma e quindi ci stavi ascoltando con le cuffie ora in macchina? No, stavo arrivando a Taranto. Ah, ok. E adesso stavo col telefono. Raccontami di quella notte, Antonio. E niente, quella notte è stata la svolta della mia vita, perché io sono stato tossico per tanti anni. Uh-huh. E avevo 30 anni, sì, quando non ce la facevo più. Quanto tempo eri stato tossicodipendente, Antonio? Sono stato un 12 anni. Ah, tanto. Perché ho iniziato a scuola, al liceo, come la solita prassi, però io ti parlo dell'80, hai capito? Cioè, gli anni in cui sì, gli anni in cui 70, era nel 74, 73. Insomma, quindi ci sei rimasto dentro per 12 anni e poi cosa è successo una notte? Poi poi ho passato tutte la galera, ho passato le crisi, tutte compagnia bella, e non ce la facevo più, cioè arrivato al punto che o dovevo finire come tanti amici miei o dovevo fare la svolta della mia vita. Sono stato aiutato da una ragazza che è stato un angelo, che mi ha fatto conoscere la comunità di Mondo X. Ho capito. Senti, tu te la ricordi precisamente, Antonio, quella notte? Che giorno era? Sì che me la ricordo. Dov'eri? Dov'eri? Era di estate, era una sera d'estate delle tante crisi che uno può avere, no? E dove ti trovavi? Per strada, a casa? No, mi trovavo in quel periodo mi trovavo a casa, sì. Ho capito. A casa nella mia stanza. Senti, Antonio, purtroppo devo chiudere. Quanti anni ha tuo figlio? Io ho due figli adesso, uno c'ha 17 anni e una c'ha 18 anni. Beh, Antonio, direi che a questo punto una tendinite mi sembra la cosa minore migliore che potesse capitarti, sì, a questo punto. Chiaro. Ti auguro buona guarigione e grazie per la tua storia, Antonio. Grazie. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao, grazie. Gita l'ultimo anno, io in crisi con la mia lei, la mia migliore amica in crisi con lui, lei piange, avrei voluto abbracciarla e baciarla, non feci niente. Luca, quella notte di 22 anni fa trascorsa in bianco per proseguire una partita di tennis, di McEnroe negli USA. Nicola, la parola del dizionario di oggi è deviare e questa è la definizione. Deviare, verbo intransitivo e transitivo. Intransitivo, modificare la propria direzione, uscire dalla via consueta o principale. Figurativo, allontanarsi da una linea di condotta o da un criterio morale, distogliersi da un tema, divagare. Transitivo, avviare in una direzione diversa dalla consueta. Etimo, dal latino tardo, deviare, data fine secolo XIII. Che poi in realtà la convocazione di oggi di SMS, Twitter, Facebook è la dimostrazione come davvero noi dedichiamo una puntata intera a una storia e una storia sta in 140 caratteri. Davide scrive su Twitter, sul profilo Twitter del programma, che è, voi siete qui R24, quella notte che a 25 anni sono uscito dal seminario e dopo 2 anni ho trovato la mia strada e ho sposato mia moglie. Davide, ecco, se avete, anche se questo è il mio SMS preferito. Quando quella notte di carnevale mi svegliai su una scala d'emergenza di una scuola vestito da azteco. Ecco, ora, chiunque abbia voglia anche solo di raccontare quella notte in più di un SMS, in più di un messaggio Facebook o di un tweet, voi siete qui, @radio24.it, e ci facciamo una storia. Chiara, 18esimo di un'amica più grande, appartamento vuoto dei suoi, musica e tanto alcol. Più o meno quelle notti sono quelle lì, insomma. Musica e tanto alcol. Alle 10 metà di noi erano già ubriachi, in particolare due ragazzi più piccoli di me, svenute proprio. Io e i pochi altri sobri abbiamo passato la notte a curare quelli brilli per paura dei genitori o che stessero male. Non sembra una bella esperienza, ma probabilmente è stata la prima volta in cui mi sono sentita davvero responsabile. L'hashtag è quella notte, il profilo Twitter è voi siete qui R24, i messaggi invece 349-238-6666. Come si chiama quel film? È uscito a breve un film su una festa, un film americano su questa festa in cui distruggono tutto. Margherita, tu che sei più vicino al target di età 25 anni. Sì, dai, è un film in cui è una sorta di American Pie, film americano, festa americana, questi devastano la casa, danno fuoco alla casa. 349-238-6666, se ci sta ascoltando qualcuno che magari è esperto della rosa purpurea, siamo qua. Scusami Matteo, non per rompere. Mi piacciono tantissimo i messaggi in cui mi correggono. Scusami Matteo, non per rompere, ma visto che hai detto che hai studiato da attore, si dice parabrezza con la Z di Zanzà. Ah, quindi parabrezza, giusto? Marco da Milano. Scusami Marco, hai ragione, però come giustamente dici tu, ho studiato da attore. tanto tempo fa, roba che quasi non me ne ricordo più. Oggi invece è arrivato sul profilo Facebook del programma un messaggio come quelli che arrivano più o meno tutti i giorni, ne arrivano diversi e ne scelgo qualcuno che racconti in onda. È arrivato però questo messaggio di Emilio, sapete che sul profilo Facebook in generale, no? Quando i messaggi sono più lunghi di 4-5 righe, vengono nascosti, quindi devi cliccare su altro e ti si allunga. Quando ho cliccato su altro, sul messaggio di Emilio, mi è apparso qualcosa tipo 20-30 righe di racconto, cioè di fatto una storia proprio, un racconto vero e proprio, si poteva fare una puntata. Emilio poi mi ha ricordato Tiziano, l'avevamo già sentito, aveva già mandato una storia. Emilio è quello che fa lo sciatore di professione, fa la guida, è bergamasco. Sì, sì, l'abbiamo sentito l'anno scorso, era un racconto che parlava degli sci e poi lui ci aveva raccontato che fa, sì, quella roba che ti portano sulle cime con l'elicottero, fa la guida di sci alpinismo, credo, o di sci alpino, vabbè, tant'è. Insomma, la storia di Emilio è talmente bella che veramente potrebbe essere una puntata intera, per come è scritta e soprattutto per i dettagli. L'ho anche, magari a qualcuno sfuggiva, quindi l'ho ripubblicata sul profilo Facebook, l'ho trovata in testa tutto, ma la storia in diretta è questa qui. C'era un mio amico che ogni volta che io riuscivo a fare qualcosa, non importa cosa, qualsiasi cosa, lui diceva che poteva fare meglio. Meglio di me, lo diceva sempre, a tutti. Una volta gli raccontai che era un po' che me ne andavo a correre tutte le sere, da solo, e che era bello, che stavo bene, che mi piaceva. Che mi sembrava una cosa impossibile, ma che ero diventato capace di correre per più di 10 chilometri senza fermarmi mai. 10 chilometri. Un po' di giorni dopo, dovevamo andare tutti insieme in un posto, io, lui e dei nostri amici e delle nostre amiche. E lui arrivò in ritardo e disse che era in ritardo perché era andato a correre. «Quanto hai corso?» gli ha chiesto una mia amica. Anzi, non un'amica, era quella che piaceva a me. E lui rispose «21 chilometri e mezzo», specificò. Disse «e mezzo» con lo stesso tono con cui a 15 anni, quando ti chiedono l'età, aggiungi sempre «e mezzo». «Hai sentito? È andato a correre e ha corso per 21 chilometri e mezzo», mi disse lei. «Ho sentito, sì», risposi io. Dopodiché andammo insieme tutti dove dovevamo andare, ma di quella serata io non mi ricordo niente. Quando sono tornato a casa era quasi mezzanotte e invece che andare a dormire mi misi i pantaloncini, le scarpe per correre e uscii. Pioveva anche, fortissimo. Gli alberi e le foglie sbattevano tutti. Fuori dal portone di casa girai a destra, a sinistra si andava in città, verso la scuola, verso il bar. Io iniziai a correre, verso destra, piano, ma andavo, sempre. Andavo, non mi sono mai fermato. Dopo 2 ore e 43 minuti arrivai in un posto che avevo in mente, 3 o 4 paesi più in là, dove c'era la strada deserta e un semaforo che lampeggiava. Gli ho girato intorno tenendomi al palo con la mano. Intanto che giravo lentamente dissi a voce alta, scandendo bene le sillabe, «Vaffanculo!». E poi tornai indietro. Un cagnolino marrone mi seguì per un po', poi lo persi di vista. Smise di piovere quando ero quasi alla fine e corsi l'ultima mezz'ora con un vento caldo alle spalle. Rientrai in casa che erano 5 passate. Mia madre era in piedi, mi aspettava. Quando mi vide rientrare conciato com'ero, non mi sgridò nemmeno, non mi disse niente. Mi chiese solo quanto avessi corso e io risposi «non lo so». Non lo sapevo, davvero. Poi, una volta, un po' di anni fa, andai a misurare con la macchina i chilometri che avevo fatto. Era una sera che pioveva. Era la sera che quel mio amico lì se n'era andato per sempre. Avevo corso 38 chilometri, 38 chilometri e mezzo. 38 e 750 per l'esattezza, quasi 39. sul profilo Twitter del programma, che è Voi siete qui R24, mi scrive Filippo: quella notte in mare a vela, il buio e la capraia invisibile agli occhi ma presente con i profumi di macchia mediterranea. E ancora Luca: quella notte che Chicco Evani all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare segna su punizione e il Milan è campione. Ora, Luca, non so quale sia, a quale partita ti riferisci, però se parliamo di Chicco Evani almeno 20 anni fa, 15 forse, 20 tutti. 349-238-6666. Quella notte, l'ultima nella quale siamo stati insieme e ho creduto che finalmente avesse scelto me. E invece ho continuato a stare con lui. Marco, mi dispiace tanto. No, lo dico davvero, perché... No, adesso sembra che lo stia prendendo in giro, ma... No, giuro, Paolino, è che questa roba qua del sto con un altro o sto con un'altra, ma giuro che prima o poi lo lascio, è veramente una roba terribile. Lo so, sembro Marco Balestri adesso, però è vero che è terribile. Quella notte che sono salita sul Corno Stella per vedere l'alba, quella notte del primo maggio in cui al pomeriggio era morto Ayrton Senna, alla sera ho fatto il mio primo disastroso concerto dal vivo in duo col pianoforte, quella notte in cui ho fatto la mia prima sbronza di birra per dimenticare tutto. E poi grazie per quelli che mi segnalano che il film non è Porky's, come mi scrive Roberto, Porky's, anche lì parliamo di 20 anni fa, non è Una notte da leoni, il film è Project X, una festa che spacca. Saluti da MD Video, Savignano sul Panaro. Non so cosa sia MD Video, ma giuro che se è una videoteca, è una videoteca. Se è una videoteca, sei un genio. Esistono ancora le videoteche. Grazie per esserci ancora. Grazie anche a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini, a Margherita Ina e a Stefano D'Andrea. Grazie ad Alessandro. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, mi chiamo Carla, vi parlo dalla provincia di Milano. La storia di domani è la mia ed è la storia di un incontro supportato da una storia d'amore importante con una cultura e una religione completamente diversa. Questa è la mia storia e io sono qui.